Wall Street, I viaggi del lupo. E siamo un anno di Wolf Trips, caro Tony. Ciao, buonasera. Lo sapevi questo? Ti lancio sì, subito mi, questo aneddoto veloce in apertura. La scorsa. Che... Vabbè, te lo ripeto. Sì, no, beh, ma l'importante è che te lo ricordi te che sei. Sì, papà. Oggi è il 9 marzo. In realtà la prima puntata era il 10 marzo. Vabbè, dai, ci abboniamo un giorno. Ci sta. Noi siamo Wolf Trips, una nuova puntata con me Cree. Ciao. Tony. Ciao. Poi avremo due ospiti che, vabbè, aspettiamo un attimo a svelarli, che ci faranno anche un live, perché vedo già qua strumenti ovunque. Sì, vedo che si muovono, dunque sono live. Bene, bene. Sì, vabbè. Poi salutiamo la Debora e salutiamo Fabio. Ma una volta non eravamo mica noi in ritardo? No, no, noi per sapere, perché ma qua... Stasera sono arrivato in ritardo in solidarietà di Domenico. Che... Settimana scorsa? È arrivato sempre in ritardo, vabbè, così, dai. Ah, ve lo ricordate? Sì, noi ci segniamo tutto, ora c'è il libretto, nero segnato tutto. Allora, Tony, questa sera come musica volevo ascoltare un po' di... Sai che l'altra volta mi ho ascoltato un po' di acid jazz? Sì. Se mi impasto con le parole. Questa sera invece andiamo a esplorare un po' di chemical breaks, diciamo, più chemical beat. Eh sì, perché chemical beat è proprio una canzone, quindi diciamo il genere più chemical breaks. Come al solito ascolteremo un po' le canzoni un po' più famose, ma diciamo che nella serata vedremo un po' come si andrà a evolvere. Non è detto che seguirà il filone solito di Wolf Trips, te lo dico già. Secondo me no, da a vedere il materiale che abbiamo qua. No, infatti no. È un mini concerto qua dentro. Infatti. Andiamo subito ad ascoltare quindi Beastie Boys con Buddy Movie. Fatboy Slim remix, però non l'originale. Sì, la canzone è diventata famosa. Infatti, ha lanciato anche un po' il genere. E anche nella Greatest Hits dei Beastie Who got damn? The criminal is who I am. MCA, And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving, body moving. Ain't one sound in the town, so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, first moving. Body moving, body moving. Ain't one sound in the town, so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, first moving. Va bene, questo pezzo qua dai, ci stava come breakbeat. Sì, beh, Chemical Bricks, o come cavolo si chiama lei. Tony, perché non ci arriva mai al microfono, cioè veramente è una cosa pazzesca. È un bastardo stasera, guarda. Guardalo. No, hai no, messi, dai, hai messo i tacchi ho stasera. Messo i tacchi, sì, sì, così mi sono. No, perché ci sono ospiti, giusto, giustamente. Giusto. Hai messo i tacchi? Ma quali? Che mie scarpe hai messo? Non lo so, non lo no, so. No, perché sai, io di alcune sono un po' gelosa. Vabbè, un po' di scarpe, ho preso il primo che capitava. Intanto andiamo a introdurre un po' gli ospiti di stasera. Stasera con noi abbiamo le mondane. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Loro vengono da Novara e suonano, li avevamo sentiti, pensa, quest'estate in un live e mi sono piaciuti molto per lo stile che hanno di fare musica proprio sul palco. Perché lasciamoglielo spiegare a loro, dai, giusto per, sennò vi rubo tutte le idee. Ma io credo che ti avessimo colpito per la gestione dei molestoni che invadevano anche la situazione. Anche. In particolare anche il nostro Loris, no? Ce lo ricordiamo ancora, Loris. Sì, perché devi sapere, entrava della gente e andava lì a suonare. Sì, no? Si è armato di djembe e non scendeva più. Una jam session. Praticamente sì, sì. Non richiesta, bella però. Bella serata, tra l'altro, sì. E niente, noi siamo, come hai detto, di Novara, precisamente di Borgomanero, e abbiamo da qualche tempo abbiamo iniziato a varcare anche queste zone del Varesotto, ma siamo insieme da 4 anni, anzi abbiamo festeggiato il compleanno l'altro ieri, quindi auguri. Come voi siamo in festa. Hai visto, siamo tutti in festeggiamenti questo giorno. Però manca il dolce, capo. È vero, tu hai... C'ho un panettone, Marco. Se vuoi, io ho a casa una colomba. È dell'anno scorso, però. Il panettone di 2 anni fa, allora. Una domanda intelligente, scusate. Vai. Sì. Avete fatto fatica a attraversare il Ticino? Perché? No, perché? No, scherzo. A nuoto? No, beh, questa... Tony. Non ho capito l'intelligenza della domanda. No, Lombardia. Scusate Piemonte, ma Tony, sono stupido. Ascoltami. Ti vuoi decidere a farti ricoverare? Sì, infatti il TSO, cioè, aspetta che lo chiamiamo. Ti vuoi decidere? Veramente? Guarda che qua... In realtà eravamo un po' in ansia perché la macchina attualmente odora di popcorn perché ha un problemino di motore, quindi puzzava un po' di popcorn. Vabbè, meglio quello però che altro. Arrivare ce l'abbiamo fatta, tornare lo scopriremo. Un passaggio glielo daremo, dai. Vabbè, facciamo una domanda sola, poi vi lascio preparare per un brano che ascoltiamo. Ma il nome, cioè una domanda proprio cardine, vabbè, come mai il nome? Ci sta. No, ci sta, è particolare, però ci sarà un motivo, no? Beh, in realtà noi siamo mondane da un anno e mezzo, perché prima eravamo mondine. Ok. è molto semplice, quando abbiamo iniziato 4 anni fa non avevamo un nome, la situazione era stata buttata lì un po' così, fu Daniele a pensare di trovarci per suonare qualcosa in occasione della festa della donna. Ah. Anche se era il giorno è prima, stato però un anticipo della festa della donna. E allora il gestore del circolo in cui suonavamo quel giorno per festeggiare la donna ha pensato di vestirci tutti da mondine. E ancora non sa dirci il perché, non abbiamo più chiesto. Comunque quel giorno lì eravamo tutti in costume da mondine, un po' raffazzonati, cioè sembravamo più che delle mondine, sembravamo delle mondane. Soprattutto il barista, che è alto 2 metri e non ha trovato le misure giuste, per cui aveva questo top incredibile. Fantastico. Comunque per farla breve, quel giorno lì ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, noi siamo le mondane. Da lì è diventata una cosa che ha funzionato e quindi per 2 anni e mezzo siamo andati avanti tranquilli a fare le nostre cose, a suonare anche parecchio. Stava capitando qualche volta, di volta in volta, che venissero dei signori su d'età ad ascoltarci credendo che fossimo le mondine, il trio liscio. Questa cosa è successa una volta, è successa 2 volte, alla terza, quarta hanno iniziato a telefonare all'etichetta di queste mondine, lamentandosi. E quindi è venuto fuori che le mondine, insomma, ci hanno contattato chiedendoci se potevamo cambiare perché si stavano creando delle situazioni, qualcuno che faceva un po' di chilometri per cercare loro e trovava noi. Vabbè, dai. Insomma, noi non ci siamo fatti troppo. Magari era anche meglio, magari gli piaceva di più poi alla fine. Ma io in realtà no. Non fosse successo a me, io ero contento. Ma magari un pezzo liscio gliel'avete mai fatto? Certo, come i Blues Brothers, sai che si sono adattati al locale. Certo. Al locale. Ma un signore che è venuto che è riuscito a sbagliare due volte, alla fine abbiamo cercato di farlo contento. Poi le serate finivano che lui dormiva in un angolo. E cosa gli avete suonato? Rosamunda. Rosamunda. Punk. Ah, beh. Assolutamente di Rosamunda. E ballava? No, dormiva. Dormiva proprio, cioè. Fantastico. Vabbè, io sono curioso di ascoltarvi. Direi che lanciamo un pezzo così vi preparate e poi dopo ci dite un po' che cosa suonate e sentiamo qualcosa. Perfetto. Andiamo ad ascoltare quindi Lunatic Calm con Leave You Far Behind. Un altro pezzo del genere, dai. Come no? I wanna take you on a roller coaster. Siamo tornati un po' alle origini di Wolf Trips, perché la prima puntata aveva messo dei brani tipo questo, quindi... Beh, giustamente dopo un anno... Dopo un anno abbiamo detto, vabbè, non si cambiamo. Guarda che vuol dire che sei un anno più vecchio pure tu, Sì. Tu ricordi le prime puntate, tu ne stavi sempre lì in un angolino, non parlavi... Lo rimpiango con l'angolino, adesso c'hai, guarda, i capelli biondi perché c'hai i capelli bianchi. Sei un bastardo, Tony, almeno io li posso coprire. Vabbè. Va bene, dai. Allora, avevamo lasciato un attimo le mondane che si stavano preparando per farci ascoltare qualcosa di live. E niente, vi lascio la parola. Non vedo l'ora di sentirli, sinceramente. Diteci tutto che pezzo eseguite e vi lasciamo suonare. Beh, allora, il brano che stiamo per fare si intitola Perdermi. Siccome appunto nel corso degli anni ci è capitato di dover fare di scrivere dei brani per varie situazioni, abbiamo deciso poi di raggrupparli in quello che sarà un disco che uscirà fra... Non lo dico. No, non dirlo. A breve, o meno breve, ma comunque siamo in studio di registrazione in questi giorni, quindi bene. Arriverà. Ma voi avete un tema preciso nelle vostre canzoni, nelle vostre... Ma no, direi di no. Diciamo che rispetto a quello che personalmente scrivevo prima, che erano cose un pochino più, diciamo, tra virgolettissime indie, cioè introspettive, cose così. Adesso, essendo anche una situazione più acustica, siamo passati anche un po' a cantare delle storie, ecco. Quindi a cose più folk. Quindi comunque scrivete insieme? Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E dove le scrivete? Avete un luogo preciso, piuttosto abbiamo che la dove nostra capita? Saletta, abbiamo, abbiamo i nostri luoghi protetti. Insomma. Bene, sì, bene. Sì, sì. E questo brano, che si intitola Perdermi, in realtà è stato scritto, il testo l'ho scritto per mia figlia, che è nata da 9 mesi. Auguri! Come si chiama? Olivia. Bello! E niente, è stato composto una metà prima della sua nascita e la seconda metà dopo la sua nascita. Bello! Allora, ascoltiamo il brano, Perdermi. Perdermi. Perdermi. A voi. Vai. Sei il tuo mistero, sorride, non potrò più perdermi ora che so dove andrai, non vorrò più sceglierti quando ti presenterai. Sento che puoi sentirmi dentro al buio dove ora stai. Non sa perché ma sorride. Vincerti per perdermi finché saprò dove andrai. Non poter più scegliere quello che tu sceglierai. Certo potrai sentirmi dentro al buio dove starai. Resta nei tuoi sogni perché fra poco non potrai. Bravi. Eccola. Bravi. Veramente bella. Grazie. Molto bella. Siamo rimasti senza parole. Vero, né? Vero, che poi a me piace molto melodica. Sentire sì. Un padre quando canta una canzone per una figlia. Diciamo proprio... che non, ci cascano tutti. Non puoi resistere, cioè non è che ci ho pensato, oh cavolo, è nata la bambina, ci faccio un pezzo, però poi è uscito. Immagino, comunque sono emozioni forti della vita, quindi sì. Hanno tutto il diritto di essere scritte, cantate, di essere vissute in tutti i sensi. Bella. Bene. A me adesso il periodo, perché anche la festa di San Patrizio, mi veniva in mente l'Irlanda, veramente. Cioè beh, abbiamo anche pezzi più sì, folli, sì, sostenuti, sì, sì. No, ma anche no, proprio cioè quella classica canzone. Diciamo che la tua versione è una parte è data anche da problemi. Perché? Ma no, tra l'altro loro sto sempre prendendo in giro, sì, Tony. Sì. Loro suonano molti strumenti. Vabbè, in questa canzone qua sì. Non avevamo poca roba, però vi ho visto suonare veramente tanti. Quanti strumenti suonate? Beh, allora, io sono alla chitarra e delle percussioncine, il kazoo. Il polistrumentista, che è Daniele, Daddy, suona il caon, il mandolino, la chitarra, l'ukulele. E basta? Per adesso basta? Per ora sì. Beh, però in due vi posso dire che sembrate almeno in otto. Vero, vero. Ne abbiamo fatto una virtù, presto arriveranno anche le tastiere, la gran cassa. Se vuoi ti insegno a suonare flauto traverso. Il flauto è più bravo Voglio lui. Voglio farlo io. No, dai. È più bravo sto lui. Lavorando io. Sì? Sì, fra un po' bene, bene. Ci proviamo. Io c'ho un suonatore di campanelli bravissimo. se ci arrivo. Allora, facciamo così, lanciamo il prossimo brano, intanto magari vi preparate per la prossima canzone. Andiamo ad ascoltare quindi un altro pezzo di Fatboy Slim. Poi chiudiamo questa parentesi di oggi. Questo è il pezzo . Principe di tutto il movimento, si può dire. Poi lasciamo invece spazio ai nostri ospiti. Quindi andiamo ad ascoltare Fatboy Slim con Rockefeller Skunk. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now. Vabbè, dai, ci siamo ascoltati anche questo brano oggi. Sì, molto anni lontanissimo dal no, genere. Oggi stiamo spaziando un po', dai. Bene, bene. Sì, dai, Tony, vuoi questo e scappi? No, dopo. Ad aprirlo, che poi dopo sistemiamo. Già fatto. Guarda che l'intelligenza di noi femmine Voi, sì, voi non la battete manco. Voi la perdete l'8 marzo l'intelligenza. Guarda, io l'8 marzo alla sera ero a casa. Sì, lei. Vabbè, sì. È giusto che ci sono anche delle persone intelligenti, brava. Hai visto? Anche lei è stata a casa. Sì, anche lei è stata a casa. Allora, sono uscito io. Dove sei andato? Bravo, Come ti sei vestito? Minigonna, tacchi a stilo? Non mi sono fatti i peli, no, ho tenuto i jeans. Hai tenuto i jeans. Allora, andiamo ad ascoltare il prossimo brano invece delle mondane. Io vi chiamo delle mondane, ma in realtà mi viene difficile. No, ci sta, è giusto, però viene difficile. Prossimo brano di cosa parla? Prossimo brano ho sentito La Stella e Croce ed è sempre un pezzo che abbiamo scritto in realtà non era nato per essere inserito in un disco, ma lo facciamo e l'abbiamo scritto all'interno di uno spettacolo teatrale che musichiamo. Pure. Che partecipiamo come musicisti. È così. Uno spettacolo che si titola Gino Donè, il partigiano che salvò Che Guevara. È una storia di un partigiano che prese parte alla rivoluzione di Cuba. Una specie di spin-off della storia di Guevara, ecco. Ah, ok. E la storia di cui cantiamo, abbiamo scritto un brano apposta per questo spettacolo, parla della Brigata Piave, che fu una brigata di persone che in nome dell'antifascismo hanno messo da parte le loro differenze ideologiche di ogni genere, quindi si sono uniti tutti quanti sotto questa bandiera, ecco. Non capito. Stella e Croce. Andiamo ad ascoltarlo allora. Ok, aspetta che mi levo le cuffie. Vai, vai, tranquillo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Che mi seguono e fra le foglie loro corrono ed era l'albero, io credevo che mancasse un niente, adesso questa piazza sembra che più non ricordi nulla dei perché di quelle gambe troppo corte e quei fucili in mano. Lungo il Piave sanno che qui non c'è posto per l'orgoglio, la corrente basterà a far passare ogni spiraglio. Certamente Stella e Croce avranno stretto quel cammino, solo ortiche cresceranno là nel campo al sud. E con i piedi che si bagnano in queste scarpe che non tengono, la neve stanca sopra i campi ed è già primavera. La notte fredda sta passando ormai e vede l'alba e non l'ha avuta mai. Si è liberata con il sangue dal suo manto nero. Lungo il Piave sanno che qui non c'è posto per l'orgoglio, la corrente basterà a far passare ogni spiraglio. Certamente Stella e Croce avranno stretto quel cammino, solo ortiche cresceranno là nel campo al suo destino. Questa era molto bella. Bella, veramente bella, bella, bella movimentata, bella. Grazie. Carica, bella. Ti carica. Veniva proprio voglia di festa dell'unità. Festa dell'unità. Vabbè, vabbè, un sì, po' per i temi. Sì, sì, ma Tony, hai rotto le palle. Ma perché dico, io dico? Hai rotto. Sono state anche la mia giovinezza. Io da bambino mi piaceva. Ma guarda. Ma voi stasera state facendo un po' le versioni acustiche, quindi, dei brani? Diciamo di sì, nel senso che Perdermi, quella di prima, è piuttosto verosimile. Sì, sì, sì, sì, quella ci sta. Questa magari me la immagino anche con un po' di drum sotto, cioè, mettiamola su. Praticamente nel disco ci stiamo lasciando molto andare, nel senso che... Ma è giusto così, bisogna sperimentare. Ma sì, la questione poi sarà riuscire a farle rendere dal vivo come le facciamo nel disco. Quella è la cosa più difficile. Però abbiamo pensato di non porci troppi limiti, poi, cioè, anche perché poi se le cose vanno bene perché facciamo no? tutti le dita perché la no? formazione potrebbe anche allargarsi, sì, che ne so io, quindi anche io, perché non ci sopportiamo più. Io non ne posso più, no, io non posso più di vedere questo qua, cioè, immagino sempre basta, le solite facce, sempre noi due, io e te, se no Sandra e Raimondo, ragazzi. Pensa a me, guarda, cioè, ma voi per adesso è un hobby o proprio il vostro lavoro? Diciamo che è il nostro lavoro, sì, diciamo, no, è il nostro lavoro, no, perché chiedeva se è un hobby. No, è il nostro lavoro, sì. Bene. Ah, caspita, questa è una bella cosa. Vero. Tra le mondane e altri progetti paralleli, e poi le lezioni di chitarra, piuttosto che, cioè, qualche lezione qui e là, ci tiriamo fuori un... Però fare del proprio della propria passione il lavoro è bello. Vero. Bella cosa, sì, decisamente. Molto bello. Io non ci sono mai riuscito, però vabbè, pazienza. Ma no, dai, è questione di applicarsi. Sì, è vero, può essere. Già. Adesso, quindi, nel nostro programma volevo chiedere dimmi tutto. Voi siete social, siete dove possiamo venire a ascoltare le vostre canzoni? Beh, attualmente c'è la pagina Facebook, che è facebook.com/ le mondane da Diebo. Boh, sono io. Boh. Cioè, sì, io sono Luca e lui è Daniele, però comunque abbiamo i nostri soprannomi storici. Un po' di crisi di identità ogni tanto. Sono già in crisi. Guarda, mi chiamano Bo dalla prima liceo, non per il mio cognome, Borin. Ah, ok. E quindi la pagina è quella, dicevo, su Facebook. Adesso faremo il profilo Instagram. Sono tutte cose che sono in divenire, perché il disco poi ti porta a dover diventare più social per poter promuovere. Sì. Prima non ne avevamo neanche questo gran bisogno. Le date c'erano, avevamo la nostra paginetta dove mettere gli eventi e bastava. Adesso magari ci cercheremo di concentrare un po' il fuoco su queste cose. Comunque arriveranno. Anche il video. Anche video, tutte queste cose. Ma come? Su Facebook, su YouTube ci siete? Su YouTube avete un c'è canale? Sì, no, appunto dovremmo fare anche il canale YouTube. Comunque c'è su YouTube, abbiamo già qualcosa che si può trovare cercandoci. Abbiamo delle cover che abbiamo fatto, tipo La ballata dell'amore cieco di De André. Oppure recentemente abbiamo registrato, proprio una registrazione in studio, il brano Rise di Eddie Vedder. Che c'è stato commissionato per un centro yoga, attività del genere. Sì, esatto, praticamente per fare un video promozionale di questo centro ci hanno chiesto di rieseguire questo la canzone brano. Del film, no? Esatto, sì, quella sì. Di Into the Wild. Into the wild. Che bravo, se un attimo hai visto, io ti completo. Ma quanti ne sapete? Cioè, tra tutti? Però non vi sopportate. No, ci così. Odiamo e ci completiamo nell'ora. Sì. Finisce sempre così, vai tranquillo. Pure io non sopporto, vabbè, lasciamo perdere però. Io direi, no, allora, diciamo. Direi che ci ascoltiamo un altro pezzo, così intanto voi vi preparate e ci fate ascoltare qualcos'altro. Ma io vi volevo chiedere, prima di chiudere poi le due ore di programma, un pezzo un pezzo cover mi piacerebbe sentire, che vi piace anche a voi però, qualcosa di un po' particolare. Dai, ci penso. So che non è bellissimo farla cover, però... Beh, guarda, noi nasciamo mi piace cover, vedere bene. No, ma mi piace vedere lo stile in cui uno riarrangia. Magari un pezzo che potete vergognarvi, ci no, piace tanto. No, magari un bel pezzo che... Di qualche cantante che dici, ma perché Tony, bisogna mettere qualcosa Tony, di... No, scusate. No, Tony. Volevo chiedere, voi avete appunto detto adesso che nascete come cover, sì. che, che cover che... Sì, ci ispiriamo al cantautorato principalmente. Italiano sempre, sì, i vari De André, Guccini, Gaber, non so, Ivan Graziani, Capossella. Capossella, esatto, sì. Questi sono il nostro punto di riferimento. Infatti poi in effetti nel disco ci sono anche queste cose. Il prossimo pezzo che faremo, cioè che eseguiremo più dopo, fra un po', ricorda un po' Capossela, come un mazzo. E quindi quello è la nostra dimensione, anche perché bene. In due in acustico sta in piedi quel tipo di contenitore, certo, lì, insomma. Vabbè. Ok, dai, andiamo a ascoltare un brano, così intanto vi preparate. Wake up 'cause I'm on my way. I'm 2 a.m. in the cabin, it's only Monday, and the driver knows my name. Yeah, I hope that I am on your mind. My head's out the window tonight, staying up till the club shut down. Yeah, I work too much, so I had to get out. Tell me where you wanna go. Back to your place, I don't mind. My head's out the window tonight. I don't wanna go home. Let's go somewhere we've not been before. We could get high on the beach or fly to London or Tokyo. I'm alive when we're together. I'm alive, I'm alive. Che ti risponde, cioè, la radio, no, è uninaterale. Volevo fare un saluto al mio amore Ale e anche a Chicco che ci stanno ascoltando, sono nostri due piccoli ascoltatori, gli vogliamo un bene dell'anima. Ale, ciao. Salutami il Chicco. Dai, nella prossima puntata gli mettiamo un pezzettino di Cars. Dai, veramente. Vedi se c'è una versione elettronica. Giustamente si chiama Chicco perché è piccolo. Sì, Federico è sarebbe. No. Ma tu, no, non è a posto, ragazzi. No, non è a posto, non ascoltatelo. Ale Chicco, lasciatelo stare perché, guarda, tranquilli. Vabbè, intanto che stavamo cercando di corrompere le mondane a farci un pezzo trash. cioè, praticamente... l'avete fatto. Tony t'aveva... Una caramella non accettata, sì, dunque. Sì, la caramella è buonissima. Ecco. Ecco cos'è sto odore che mi arriva, sta fiata di pensa caramella. Che Tony vi aveva chiesto Maracaibo, ma ha detto di no. No, abbiamo fatto cose di cui ci vergogniamo, però. Non solo voi, non vi preoccupate. Anche inimmaginabili. E niente, no, invece andiamo a ascoltare invece qualcosa di serio, quindi. O serio o divertente, vedete voi, eh. Ma diciamo che vi faremo la title track del disco. No, quindi non è definita la data, però ci avete già le idee abbastanza chiare, sì, comunque. Sì, sì, assolutamente. Anzi, questo è stato un pezzo che in realtà è nato quando abbiamo preso coscienza che tutto quanto sarebbe poi confluito in un album, abbiamo iniziato a produrre poi. Quindi sì, certo. Questo pezzo qua che si intitola I giorni della marmotta diventerà poi probabilmente anche il titolo del disco e il tema è un po' il senso dell'attesa. È stata scritta in pieno inverno, non so se avete presente la marmotta, sì. il giorno della marmotta è il 2 febbraio, abbinato ai giorni della merla che abbiamo noi, abbiamo fatto questa geniale associazione di idee e nella quale noi eravamo impastati in quel periodo in cui vivevamo delle attese e ne continuiamo a vivere, insomma. Tra l'altro, chi fa questo tipo di lavoro vive di attese, c'è da aspettare sempre qualcosa. Vabbè, sperando che si sblocchi qualcosa. Tra l'altro. Non è tanto il fatto di aspettare, il fatto che poi dopo succeda qualcosa in realtà. Quello vabbè, però uno si deve creare le situazioni. Ma no, ma poi alla fine puoi anche andando avanti, cioè puoi anche andare avanti continuando a inseguire le cose. Come diceva in quel film, in quel Batman Joker, diceva: io sono un cane che insegue le macchine, non saprei cosa farmene se le prendessi. Giusto, giusto, giusto. Bene, quindi andiamo ad ascoltare Il giorno della marmotta, giusto? Sì. I giorni della marmotta, tutto vostro. Stamattina il sole è un'ostia, ma mi devo confessar. Rivolgiamo a lui la questua e restiamo ad aspettar. Aspettar ci viene bene e l'inverno fa per noi. Quest'inverno senza neve ce lo meritiamo un po'. Aspetta, merita. La marmotta ha visto l'ombra e la merla invece no. Quanti rami son già in fiore, quanti fiori muoiono. Ogni volta che la incontra conta sempre in un addio, ma lei già ci crede poco perché dovrei farlo io. Sta un po' nel non notare di nuotare nel piscio. Sfoceremo in qualche posto, ne son certo, amico mio. E anche questo avrà il suo costo, e dolce mel formicolio. La marmotta ha visto l'ombra e la merla invece no. Quanti rami son già in fiore, quanti fiori muoiono. Ogni volta che la incontra conta sempre in un addio, ma lei già ci crede poco, perché dovrei farlo io. Bella, bella, bella, bella. Bravi. Sì. Oggi abbiamo cambiato un po' musica, ma mi piace, no, mi piace. No, ci vuole ogni tanto. Curioso questa cosa che tra i nostri brani in mezzo passate roba elettronica che con noi non c'entra niente. Assolutamente nulla, assolutamente nulla. No, dai, ci sta. Beh, ci vuole. Beh, poi anche in Italia c'è poca questa cultura proprio di mettere un po' di tutta la musica, no? Perché ogni posto che vai sempre la solita musica, ci vuole un cambiamento. Non siamo settoriali. Ecco, dai. Perfetto. Tra l'altro volevo dirvi una cosa, questo pezzo qua un po' mi ricorda qualcosa di De André, no? Può essere? Può essere, sì, assolutamente, questo tipo di, questi andazzi qui molto cantautorali, molto anche Capossela sì, è vero. Per alcuni suoni che compariranno nel disco, un po' alla Capossela o alla Tom Waits. Alla Tom Waits, che sì. Io adoro. Manca la voce, manca la voce di Tom Waits. Magari, sì. La timbrica lì, poi vabbè, insomma, lui fuma anche 2000 sigarette. Infatti. Ah, quindi tra poco... Pausa sigla? Assolutamente. Si potesse fumare dentro. No, scherzi. No, fumare dentro no, perché... no, più che altro, vedi, queste pareti trasudano, nel senso, se mettiamo a fumare dentro, è rimane qua per 8 anni, certo. Praticamente. Ah, non guardiamo quindi... di sopra per piacere. No, vabbè, è la nostra radio, dai, gli vogliamo bene così, dai. O sì, no, Tony? Non so vero. Cosa ci sia qua, cose indefinite, cioè veramente. Vabbè, allora, facciamo così, visto che cambiamo un po' genere. E vai. E, tanto voi avete ancora, penso che ne avete un'infinità, ma io volevo dirvi che in realtà ho preparato il brano strumento, ce l'ho fatta. Quindi magari possiamo anche metterlo adesso in realtà. Se volete dirci qualcosa di questo brano, di questo CD che mi avete... gentilmente fornito. Sì, allora questo disco, cioè questo brano che si intitola Strumento, è sempre nostro e comparirà nel disco. Il brano che tu metterai, sì, è una versione un po' embrionale di quello che poi succederà nel disco, quindi ci sono alcune cose diverse anche a livello strutturale, però è una bozza quasi, anche se registrata poi in studio e tutto quanto, che è stata inserita all'interno di un disco, di quel disco che si intitola Il mio lavoro libero. È un disco ideato e poi e tra l'altro prodotto da Michele Anelli, che salutiamo, che è un artista del Borgo Manerese al quale è stato commissionato dalla Confartigianato di Novara un disco sul tema del lavoro. Allora lui ha radunato un po' di artisti, musicisti vicini, suoi contigui nella zona, tra cui Noi Mondane, poi io personalmente canto un'altra cosa, insomma, e altri amici che compaiono nel disco, tutti quanti con principalmente cover. Però noi e anche un altro gruppo che si chiama Rumor, dei nostri cari amici, che salutiamo anche loro, hanno inserito un brano inedito sul tema del lavoro, comunque dell'esprimersi con il proprio lavoro, con il... L'artigianato. L'artigianato è un po' didascalico. Sì, forse sì. Si può ampliare il concetto e vengono fuori una valanga di temi possibili, tra cui anche la nostra canzone. Ho visto che è un periodo che, a parte vabbè, adesso questo qua del lavoro non lo conoscevo, però ho sentito che c'era tipo un concorso, forse più sul Varesotto, dove potevano partecipare delle band che avevano scritto dei brani, per esempio sulla legalità. Oppure sì, avevano fatto un altro concorso sulla sicurezza stradale. Sì, cioè, sta uscendo fuori questa moda di accomunare magari una compilation, qualcosa con un un tema. Certo. Cioè, questa cosa qua al lavoro non sapevo questa c'era cosa. Anche Voci per la Libertà, forse è un po' Voci per la Libertà, una cosa che c'è adesso in questo momento il bando. Sì. A me piace questa cosa. Sì, la trovo ha una direzione ben precisa, sai cosa vai a sentire, o almeno hai un'idea. No, il genere, effettivamente, tutti questi concorsi che ho visto, il genere non è un limite. Che è una cosa bella, infatti, una cosa che mi piace molto. È il tema, ma il genere è molto aperto. Quindi sì, cioè, possono esserci tutti i generi musicali. Tutti i generi musicali, senza... però il concetto il deve essere. Il denominatore è quello e via, ragazzi. Tipo, questo CD qua è rock, cantautoriale, un po' di tutto. Assolutamente di tutto. C'è veramente dalle cose più. Cioè, anche perché lì c'è un pezzo di De André che si intitola Un Ottico, sì, che faccio sempre con un gruppo in cui suono io, che è proprio un pezzo quasi prog rock. Poi c'è un brano di Niccolò Fabi molto cantautorale, poi ci sono dei pezzi di Michele Anelli scritti anche quelli da lui, insomma più sul rock classico un po' anni 90, diciamo, è abbastanza eterogeneo. Ok, quindi andiamo a ascoltare Strumento, giusto? Strumento. Andiamo a ascoltare quindi Strumento. Adoperarmi per salvarmi, per adorarmi e poi comprarmi. Bello questo bello, pezzo, bello. Questo è un po' più tranquillo degli altri, no? Intanto che li stiamo mandando in pausa, quindi mi faccio sì, animare. Che c'è frega? La pausa sigaretta non si tocca. No, ci sta. E intanto che allora facciamo un attimo una pausa sì, con i nostri ospiti e andiamo a ascoltare un po' di brani estratti dalla tua rubrica. Dalla mezzatonica. Ci sono io, disturbatrice? No, perché? Mica di... Cosa dici mai? Non ti ha mai disturbato? Sono altre cose. Quindi che brano hai scelto per oggi? quello che vuoi. È potente, eh. About Beyond. Ma dopo? Pezzo, c'è scritto, aspetta. Che c'è scritto? Ah, niente. La canzone si chiama Sun and Moon. Allora mi ha fatto sole lo scherzo, non mi... Sole e luna. Sì, sì, sai che io l'ho scelta perché sapendo che stasera c'è un gruppo acustico, questo pezzo è anche acustico, anche se... L'originale è un pezzo un po' più cattivello. Un po' più tirato. Ho in mente il DJ. Quindi andiamo ad ascoltare Above and Beyond con Sun and Moon. Mi viene da piangere. Con questo pezzo mi sta venendo da piangere. Sì, beh, è un po' triste. Infatti ho visto Fabio quando è rientrato che aveva una faccia. No, era più triste la tua che è entrato. No, vabbè, dai, no, beh, è un pezzo molto romantico, direi. Sole, sì, luna. Sì, sì, sì, sole luna, sole luna. Sì. Però mi sa che l'originale era bello carico. Sì, no? Sì, beh, era Beyond, musica trance. Tac. E poi vabbè, questa sera ho letto di una notizia che ha un po' sconvolto un po' me per le mie abitudini ai Bizenk, che la serata che è chiuso, sera... che cos'è, no, che no, la serata più famosa, l'unica rimasta che mi interessava, l'hanno trasferita in un tempio più grande dell'Amnesia, storico locale, all'altro nuovo locale, al baretto del Alai, che è il nuovo space di Ibiza. Vabbè. Beh, ha cambiato solo posto e basta, e niente. Quindi quest'estate vai lì? Sì, come al solito, ormai facendo le... scongiuriamo perché qualcuno dice... Cioè, ma quindi non so che vai cosa... da solo? Sì, a quanto pare vado da solo. Vabbè. Ma quindi vai in aereo? Sì, quello sicuro. Già prenotato. Vabbè, intanto... Fabio, se vuoi parlare... Buonasera a tutti. Eccolo. Eccomi qua. Beh, c'è la voce radiofonica. No, ma è bravo, no. Allora, infatti volevo fare il programma anche con lui. Cioè, potresti lanciarti nel mondo della radiofonia. Okay. O come facciamo noi nella cacofonia. Ma infatti ho provato a lanciarmi, però poi... Sei caduto, ti sei fatto male. No, è semplicemente nella piscina dove mi sono lanciato, non c'era l'acqua sotto e mi sono... Appunto, quello è il concetto. Sì, la risata però, grazie. Vabbè, posso anche far di meglio, ragazzi. No, grazie. Sperando che ritornano. Anche la dai, addirittura. No. Ma immagino chi ti vede dalla webcam. Ma spero che non mi vedano, perché sennò potrebbe rompersi o lo smartphone o il computer con cosa mi sta vedendo. Ci manca anche no, questo. Dai, abbiamo avuto persone peggiori. Sì. Poi vedi, c'è la Tony. Cioè. Sì, ma lui, vabbè, ma no, poi c'è anche lui. No, ma lui è molto radiofonico, perché sì. Adesso siamo noi che siamo, ripeto, cacofonici. No, dai che siamo bravi anche noi nel nostro piccolo. Vabbè, andiamo a ascoltare il prossimo brano. Lo vuoi lanciare tu? L'ho lanciato tutti io stasera. Ho fatto tutto io. Facciamo lanciare da lui. Vai. Quello in alto. Qua il titolo, Allora, ex ambassador Devil, you know. Devil, you know. Ok, giusto. Ci siamo. Devil, you know, the devil you know, the devil you don't. Cause wherever you go, wherever you go, with the devil you know, you're never alone. It's better to know the devil you know, the devil you don't. Yeah, hey. Yeah. Mi devo richiamare all'ordine. Mamma mia, ma veramente. C'era un po' di degenero. Sì, perché devi sapere, in altre puntate qua, quando arriviamo verso, diciamo, le nove, fino alle 9:30 siamo tutti belli precisi, vedi che... Dopo le 9:30 c'è il degenero, solitamente. Cioè. Stiamo bevendo acqua, eh. Infatti mi sento un folle. Vero, no? La voce da Tom Waits mi sta venendo. Cioè, non è legale questa cosa. No, no. Veramente. Comunque volevo dire ai nostri dici ascoltatori tutto. Che non sono pazza, perché prima mandavo i bacini. Quindi. Comunque guarda che c'è gente che ti guarda e dice: ma che cazzo sì, sto facendo? Sto facendo, sì, ce l'avevo, stavo mandando i bacini a Alec. Sì, abbiamo capito, soliti. abbiamo capito. No, prima che poi mi chiamano la neuro, mi trovo la neuro fuori dalla porta. Comunque torniamo ai nostri ospiti. Prossimamente avete date? Sì, sì, parecchie. Anzi, guarda, la più prossima, tra l'altro qui in zona. No, la più prossima non è vero perché ne abbiamo già settimana prossima. Però a Gallarate, dalle vostre parti, alla Vinoteca, suoneremo il 29 marzo. Bene, alla Vinoteca? Qui a Gallarate, quella che si chiama così, si chiama così. Vinoteca. Ah, buona. Esatto. Perché non lo sapevo io sta vinoteca, ci ascolto. Io allora, locale nuovo, uno se non perché erro. Non mi ci hai mai portato. Sì, molto... E poi guarda, visto che ci siamo, ma avete confermato quindi la data? Che prima non eravate sicuri? Ma se vuoi controllo in diretta. Attenzione. Il bello della diretta. No. Vabbè, ok, allora. Vabbè, comunque cioè almeno ho mandato il messaggio con l'ok a letto e quindi penso che... Ah, vabbè, l'ok è già chiuso. No, dovrebbe essere a posto. Quindi diciamo il 29 andiamo a sentirle anche noi, dai. Così andiamo. Prendiamo l'occasione di vedere anche il locale, no? Infatti, veramente. E berci un bel bicchiere tutti insieme. Che non fa mai male. No. Sì, poi tendenzialmente noi comunque la formula in due è nata perché potessimo girare moltissimo. C'è uno ubriaco e l'altro guida. A parte questo. Chi è che guida? Di solito. Ma in genere è lui pilota. La mia patente è ancora lì in tons. Salva. La mia no, però. No, infatti, no adesso ce l'ho, però insomma, a durate limitate. Per questo bevo acqua. Comunque, disintossicatevi. Speriamo che poi con l'arrivo del disco cioè già l'abbiamo fatto suonare su qualche palco più grande, in qualche contest, cioè in qualche contesto, su qualche palco più ampio, su qualche festival. Speriamo che la cosa aumenti esponenzialmente, in modo da proporci in situazioni sempre più fighe, sempre più grosse. Ma però, questo lo scopriremo. Con calma, dai. Sì. Poi sono bravi, mi piacciono un sacco, veramente. Poi sentirli proprio qua dal vivo è proprio bello. È una bella cosa, una bella vero, cosa. Grazie ragazzi, grazie. Molto mille. Bello. E stavi dicendo, quindi avete suonato già in qualche palco molto... Cioè, qual è uno dei palchi che vi è piaciuto di più, dai? Qualcosa di passato bello? Ma... 4 anni, dai, qualcosa... Pensiamo a tutti i localacci. No, lascia stare quelli, lasciamo i stare. I circoli. Ma no, i baretti, no? Circoli arci, no? Sì. Sì, sì. Siamo nati in un circolo arci. Sì, sì, sì. No, palate quelli. Ma no, date così a caldo. Mi viene. L'anno scorso abbiamo suonato in una bellissima... Per il 25 aprile eravamo in questo spazio a Grignasco, che è in provincia di Novara. Fu una giornata molto bella, organizzata dall'Ampi. E lì aprivamo Luca Bassanese, che è un cantautore... abbastanza di livello e fu una giornata molto bella, però diciamo situazioni memorabili come palchi. Ah, vabbè, va bene anche come giornata, cioè sì, se è una giornata bella vale la pena. Come risposta del pubblico anche fu bello, quindi è perfetto. Quando riesci poi a portare tutti sotto a ballare, sì. Abbiamo una domanda che forse c'entra poco, però dal punto di vista adesso politico, la sparizione, diciamo, di una certa parte è quella parte che in fondo è il vostro pubblico. E sparisce anche il pubblico o comunque la gente è trasversale? Cioè, ma no, piace, cioè non c'è, lì la politica non c'entra più. Ma no, ma anche perché secondo me, cioè io non ci considero così schierati. Abbiamo spesso suonato in certi contesti perché quel tipo di folk e di cantautorato sta bene in quelle situazioni. Sì, però, appunto, la musica dovrebbe, cioè, unisce. Infatti, però, cioè, non è che siamo, che ne so, i Modena City Ramblers. Sì, siamo quelle, sì, situazioni, quella roba lì da primo maggio e basta. Ecco, bravo, no, diciamo che... No, perché gli spazi, diciamo, musicali, diciamo, sono pochi in Italia, no? E poi magari se vengono in un contesto solo politico, invece... Bisogna appunto dare spazio a tutto. Certo, ma onestamente... Anche il Festival Bar vi voglio vedere. Guarda, lo rifonderemo. No, io non sono neanche un particolare fan di questo tipo di approccio. Cioè, è bello fare cercare di non tenere la politica al centro, sì, infatti, della musica. Sì, sì. Il discorso del pezzo di prima, Stella e Croce, è nato per un motivo ben preciso ed è l'unico pezzo che ha una genesi del, sì, genere. No, io parlavo proprio di spazi che la gente può suonare, ecco, perché pensavo che certe cose... Tu ti riferivi alle feste tipo... Che sono, sì, riducendosi, sì, diciamo, una certa cosa, però, si riduce. Contesto lì, però... Meno male, no. No, loro suonano un po' sì, ovunque. Sì, sì, non... sì, chiaro. Sì, sì, hanno questo problema. E per voi, come altri gruppi, per... Cioè, tutto quello che in Italia purtroppo non si sente. Tony, dimmi. Ma tu hai che fare queste cose, dillo. Io non so... Cioè, dillo che hai la tessera, che vai a tutto. No, ma la mia non è la politica, la mia è appunto un discorso appunto musicale per gli spazi, come il tuo marito, quel suo gruppo, che cerca spazi per suonare, ecco. Guarda, no, soprattutto sì, se giro per fare una promozione ai ruvidi. Ai ruvidi, è certo, ma ci sta, no. Che non li abbiamo ancora nominati in radio, quindi... No, è vero, no, anche adesso mi cancello. Va bene, facciamo, no, così prima allora. Prima sei tu, Tony. Grazie. Ascoltiamo il prossimo brano e poi dopo cosa fate? Ci preparate qualcosa? Ma facciamo la cover di cui si era parlato, sì, prima. Abbiamo, sì, pensato, sì, a un, sì, pezzo, sì, che 883, facciamo. Ok. No, non li faremo. Madonna, Madonna. Adesso, Madonna. Adesso, Madonna. Adesso, il prossimo. Adesso dopo, sì, sì. Ordine. Tony, guarda che gruppo che ti ho trovato. Cioè, proprio giusto per il nostro programma. I Valley Boy? No. Il Wolf Parade. Con Valley Boy, cioè, un brano dei lupi tutti in fila. Sì, sì, sì, okay. Una parata dei lupi. Parata lì. Oh, Siamo andati un po' nell'underground dell'indigo, eh. Sì, suonava molto David Bowie. Visto a giorni nostri, però, dai. Sì, sì, è vero. Ok, ok. Perché ridi? Niente, mi fa morire Tony. Cioè, stasera. Sì, stasera è un po' intellettuale, fa delle domande veramente che sono complicate. Intelligente un pochettino. No, assolutamente no. No. No, non è sono curioso. Non è che hai detto che sei stupido. No, ma radical chic è un genere che... quelli che fanno finto di essere una cosa. Tony, sono... non te la menare, no, basta. Cioè, veramente. No, comunque noi nel nostro programma non abbiamo, cerchiamo di evitare un po' troppo le etichette, quindi buttiamo veramente quello che ci passa un po' tra virgolette per la testa. Diciamo che la logica è portare un po' alla luce quello che è l'underground, ma non underground inteso come elettronica, underground come può essere magari musica sconosciuta proprio nel vero senso della parola. La missione che hanno le radio locali è questa, no, e speriamo che continui così, perché scusa, monolocale. Perché? Le radio monolocali. Vabbè, mi ha anche tolto il microfono, Tony, perché così non potevo ribattere. Cioè, Tony, veramente. Va bene. Vai, intanto vai, che la Tony se ne va, giustamente, perché è abbandona il. No, vai. Vattene. E, no, invece, stavamo parlando prima quindi di una cover, giusto? Sì, abbiamo trovato nel repertorio dei brani che facciamo, che abbiamo sempre fatto dal vivo, questo pezzo. Volevo prendere un attimo lo spunto per dire, sì, che comunque nel nostro disco ci saranno due cover. Saranno 9 brani, di cui 2 cover. E una è un brano che si intitola Dublino, che è un pezzo di Luigi Grechi e di Francesco De Gregori, fratello di... Ah, ok. Sono fratelli, anche se Grechi ha preso il cognome della madre. Sarà una bella lotta a livello di crediti, no? O ce l'avete, siete già svincolata? No, la cosa la cosa bella è che lui, abbiamo, cioè, Luigi Grechi parteciperà alle registrazioni. Anzi, perfetto, ha già perfetto partecipato. Abbiamo questo bel gancio di una, diciamo, allora... un guest di razza. Fantastico. Ecco. Ma io volevo chiedervi una cosa, una curiosità. La prima volta che siete saliti sul palco a suonare, quindi alla festa della donna, vestiti da mondine, come è stato? Che emozioni avete provato? Ma eravamo ciucchi. Cioè, bisogna dirlo, ecco. Mi piacete ancora di più. Sì, beh, certo, giocavamo in casa proprio tantissimo, eravamo nel circolo del paese fra amici, ed era nata così, proprio, ma sì, dai, proviamo a fare due robe. Abbiamo fatto una prova, forse, per l'occasione. Cioè, io so fare sto pezzo qua, io so fare quello lì. Abbiamo tirato in piedi, anche credo, 2 orette di musica. Tra sì, una sì, 2 orette però... di musica. Poi seguito, partecipato come live. Nel senso, poi ci siamo guardati, noi siamo le mondine. Cioè, ci siamo accorti che funzionava mentre lo facevamo la cosa. E quindi... Ah, quindi voi non suonavate già insieme prima? No. Proprio in quell'occasione? In quell'occasione fu lui a propormi, mi ha pescato una sera in un locale che frequentiamo tutti e due, mi fa, ma il 7 cosa c'hai da fare? Niente, dai, facciamo qualcosa. È andata così. Però... Ma sì, anche perché suono... Non era ciucco anche quella sera là. Sì, ovviamente sì. Suono il Kaon, appunto, me l'avevano appena regalato, il mio primo Kaon, che l'ho devastato, adesso è diventata la nostra gran cassa ufficiale che suona lui. Vabbè, comunque appena volevo trovare una situazione in cui suonarlo. E allora era nata proprio grezza, Kaon e chitarra. Poi vabbè, dopo io ci ho messo le corde, eccetera, eccetera. E sei diventato raffinato. E sono adesso diventato raffinato. Lo ero già, però ero già raffinato in altri contesti. Con lui volevo essere poco raffinato. L'hai guardato in faccia. Per non essere volgare. Ecco, fermati. Fermo. Vabbè, chiusa parentesi. E quindi che cover ci proponete? Facciamo Amandoti dei CCCP. Ok. Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia. Che vuoi farci? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente. Bravi. Veramente bravi. Grazie. Io ero qua che canticchiavo, Ti sentivo? Cioè, ma veramente? Sì. Ma come? E te l'ho detto io che si sentiva. Io continuavo a dirtelo. Avete trovato la seconda voce? Ma è chiuso. Sì, però no, lui ti sentiva. Allora, ti devo fare una lezione. Quel microfono lì prende tutto. Dai. No, comunque molto bella, molto bella. Ma che cazzo. C'era Tony qua che diceva: ma io speravo in un pezzo di Madonna, un pezzo. Invece no, ha fatto una cosa seria, ha fatto un bel pezzo. Intanto salutiamo Sam. Sam, ciao, ciao. Buonasera. Ciao. Siete solo voi, no? Pensavo che stavi invitando 67 persone. E stasera siamo in un po', Sam. I'm trying to send my information's just not going in. Intanto abbiamo incaricato Tony a recuperare le tracce giuste. Sì, è vero. Meno male che la... sì. No, perché... lo vedevo un po' silenzioso nell'angolo. Sono rimasto un po' così, cioè... perché è rimasto un po' mogio mogio. Sì, cioè, ci tengo e... Allora, dagli il compito anche per, da fare per il dopo serata, non si sa mai. Che devo cucinare, che devo fare? Ah, veramente? Le fa da magnare, fa da magnare. No, dimmi, no, cos'è che devo fare? Era per farti stare buono. Ma no, è qua bello tranquillo, dai, stasera siamo tutti belli tranquilli, sì, rilassati. E quindi ci dicevano le mondane che ci faranno una cover, giusto? Sì, facciamo, siccome degli altri pezzi del disco non abbiamo la strumentazione, ci manca l'ukulele e quindi volevamo fare Rise di Eddie Vedder, quella che abbiamo registrato, ah, di cui sì, abbiamo parlato prima. Sì, sì, sì, sì. Ma ce l'avete già pronta? Volete prepararla per dopo? Come vuoi, eh? Ma in realtà ce l'abbiamo anche pronta. Allora dai, andiamo subito ad ascoltarla. Such is the way of the world, you can never know. Just where to bottle your faith and I will let grow. Gonna rise up, burning black coals in dark memories. Gonna rise up, turning mistakes into of time, too fast to fall. Suddenly swallowed by science, slow and behold. Gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, through that maze in the hole. Ottimo, ecco, ottimo. Bella. Molto bella. Che questo pezzo è stupendo. Cioè. Questo è l'ovetto. L'ovetto. È uno strumento comodissimo, smart. Beh, facile anche da suonare, spero. No, in realtà forse non credo, perché... Beh, oddio. Comunque devi avere un minimo di ritmo. Non puoi suonarlo così alla... No, proprio no, però... Vabbè, non è neanche difficilissimo, sì, dicendo, no, ecco, no, no, ecco, no, no, su quello sono d'accordo, dai. Va bene, niente, ma questo brano qua, quindi avete detto, era il secondo brano che poi avreste messo nell'album, giusto? No, no, no, questo qua... mi ero perso io. Questo è un, disco, è un pezzo che abbiamo registrato per un video promozionale di un centro che ci hanno commissionato, l'abbiamo... presentato un paio di settimane fa, cioè sulla nostra pagina potete trovare la registrazione del pezzo e quindi il link su YouTube per poterlo andare a sentire. Una bella rielaborazione. Eddie Vedder sa che avete fatto questa cover? Lo sa. Cioè, detto, great guys. Poi lo sto sempre in Italia. Verrà, ma alla Vinoteca viene un salto. Sì. Pensa che io volevo raccontarti un aneddoto, ma te lo racconto fuori dalla radio perché è scabroso. Vabbè. sempre tipo collegato, diciamo, a cover e persone che poi dopo anche lui si sogna Gigi D'Agostino di notte. No, è ben diversa la cosa. Con ben diversa. Svolti con le cover, diciamo che avevo fatto un remix di un brano e l'ho mandato poi alla persona che aveva fatto il brano originale e mi ha dato l'ok, però dopo ti dico chi è. E... Non si svela il nome? No. Quindi dicevamo, vi possiamo trovare fine mese, dai, teniamoci fine mese, sì, con la Vinoteca Gallarate. Se no, dalle nostre parti suoniamo. Allora. Caspita, così tante date che vi dovete segnarvele tutte. Io sì, anche sì, io me le devo segnare tutte perché. Non ti ricordi che giorno è oggi? No, infatti. Sabato prossimo siamo sul Lago Maggiore in un bel locale che si chiama Taverna Brigantia. Dove? Alesa. Alesa. Sì. È un posto dove suoniamo abbastanza abitualmente. Ci sarà San Patrick, quindi. Ah, vedi? Qualche assetato ci sarà, immagino. E saremo lì. Ecco, il prossimo appuntamento, diciamo, in un posto carino. Senza togliere nulla agli altri. beh, sul lago, dai. Sempre dei posti dove si beve, lago, comunque. Per darvi un riferimento. Dei posti... no, qui non si beve. No. Quella taverna non si beve. No, ma sul lago bevi l'acqua. Poco. Non si beve acqua. Lì fanno ogni volta che andiamo, Daddy beve sempre una grappa al peperoncino, sì, perché... che fa il gestore, che fa Igor. E lui cerca di morire ogni volta e non perché ce la fa. Ogni volta è sempre più piccante perché ha dentro sti peperoncini fortissimi che sono lì a macerare. Esatto. Allora io ho detto va bene, un goccino prima di andarmene tutte le volte lo devo fare. Difatti sto malissimo poi quando lo faccio. E come, come Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, non so se avete sentito oggi la notizia. Ma un goccino! Un goccino. Cioè, te la dà col contagocce proprio, davvero. Aspetta, devo sentire questa qua di Chad Smith ha fatto una scommessa per una causa, una scommessa di mangiare un peperoncino così. Però a lui non piace i peperoncini, l'ha fatto in diretta, stava quasi morendo. Cioè, uno che fa parte del gruppo Red Hot Chili Peppers non gli piace i peperoncini. Non regge il piccante, questo è una brutta scoperta. Io pure ho esperienze di una persona che si è mangiato peperoncino. Lava nero. Stava malissimo, cioè, ancora un po'. Dopo essersi tolto i vestiti non sapeva più se neanche se togliessi la tonsilla direttamente. Sì, veramente. Non sapeva più cosa fare. Va bene, allora andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi dopo vediamo un po'. Quindi brani niente, perché senza cos'è che manca il... Siamo riusciti a arrivare senza uno strumento. No, beh, più che altro vabbè, ne erano già tanti, no? Ne avete portati la metà di mille, cioè, va benissimo. Siccome alcuni pezzi sono in fase di definizione, sì, li stiamo provando, dai, per ci il sta, live ci sta. Quindi questi erano quelli che avevamo magari ci possiamo risentire più avanti, a quando uscirà il disco, fatto, perché certo, no? Non sarebbe una brutta idea. Davanti un bicchiere di vino. Vabbè, ok. Una bottiglia, forse. Andiamo a ascoltare un brano di Pharrell Williams, non è happy, mi raccomando. Light shining down the yellow light shining down the yellow light shining down the yellow light shining. down. I say, hey! Light shining. There's a higher power. Light shining down. Like a yellow light. Light shining down. Yeah. Get whatever you want and undo what was done. But one thing you can't kill is the fun. Dicevo io che non era happy questa. Sì, però no, dai, sì. Non è male. A me non dispiacciono queste canzoni rap. Ma smettila, dai. Tra l'altro, questa settimana non è successo nulla sul panorama musicale. Mi sono fatto un po' di giri. Si è parte Chad Smith, ma niente di particolare. Cioè? Vabbè, quello che hai detto prima. Quindi del peperoncino. Prima. Ah! Vabbè. C'ho l'Alzheimer precoce stasera. Beh, devi, è stato il compleanno di David Gilmour, lì. Cantante sì? Dei Pink Floyd, cioè, no, infatti... sei istruito? Sì, sì, lui è istruito. Ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamato. Non c'è cavolo da fare durante la settimana, allora. Ah, ecco. Mi leggo le enciclopedie musicali. Intanto abbiamo l'ultimo diciamo 10 minuti di Wolf sì. Trips. Adesso andiamo a ascoltare un po' di brani sempre estratti dalla nostra classifica di musica underground. Possiamo chiedere anche alle mondane se qualche cosa che li avvicina alla musica elettronica, se qualcuno che... O siete molto distanti anche... Secondo me no. Beh. Se ho capito i sì. tipi, ni. Ma no, non lo saprei. Non ho un autore particolarmente... Magari qualche cantante che si è avvicinato qualche periodo un po' elettronico. Ma se stiamo all'interno del nostro, diciamo, pollaio... Sì, appunto. Magari Battiato, mi piace. Ah, beh, sì, è vero. Sì. In cui è andato un po' più in quella direzione. Tu, Daddy, credo proprio di no. Che io sappia... Ma a me viene in mente Jake Blake, che sì. è un buon cantante, direi, fa delle cose molto belle. Oppure Radiohead. Sì, Cioè, sei stupito, Beh, Radiohead non male, anzi dovremmo iniziare a mettere sì, qualche brano. Sì. No, sai cosa dobbiamo fare? Sì. Dobbiamo ricordare ai nostri ospiti a casa, visto che oggi non l'abbiamo ancora fatto, in questi ultimi minuti, se hanno qualche domanda da fare al nostro gruppo Le Mondane, ci possono scrivere al numero 338-222-8983. Okay, possono scriverci anche tramite WhatsApp. WhatsApp. Se avete qualcosa da chiedere, qualche curiosità, scriveteci pure. Se avete qualche altra somiglianza da trovare per il nostro... Aspetta, Daniele. vediamo se riusciamo. Allora, Sam, staccati un attimo dal telefono. Chi ti ricorda? Chi? Lui. Oh, cazzo. aspetta. No, perché sono tanti, non ti viene in mente. Ce ne sono almeno due molto papabili. Oggi ne è uscito uno nuovo. Ah, uno è Max Gazzè. anche Gazzè, vero? Spesso sembro anche lo zio di gente sconosciuta. Zio Carlo, una zio volta Carlo, in un locale l'hanno detto che era uguale a zio Carlo. Fantastico. Vabbè, intanto che Sam ci pensa, andiamo a ascoltarci un brano. Alexander Lewis con Clockwise. He gonna let nobody turn me round, turn me round. Different bras on different months. Seen that y'all made up a story when they ask about where y'all from. I'm still drawing down them 40s, bitch, that's all day. Fuck, boy, I got more than they asked for. Russian shows with my mask on. Fucking hoes with my mask on. I better buy the tape and cut a compilation. I got shop as long as they last for. Shotters don't fuck with backboards. They try to box a layup, you get a box a layup. Big and jam, switch hands, and it's opposite. Outside cream with a sore. credit card made up. It's a sweet 16, cause an arm and a leg. When they can't pay for it, they gon' always touch. I'm in Killian slacks, Jillian jacks, Perillies and Philly, you still need a strap. We still in your willies and willie and back. I still even really, we better than back. It was down like 8 p.m., chain pop, 9 p.m., stained glock, 10 p.m., 2-11s on Devon, the 12th on Miranda, we ain't cop. 1 a.m., Wayne block, 2 a.m., same spot, 3 a.m., with a no name, with a name tag, when the game's in they name drop. 8 p.m., chain pop, 9 p.m., stained glock, 10 p.m., 2-11s on Devon, the 12th on Miranda, we ain't cop. 1 a.m., Wayne block, 2 a.m., same spot, 3 a.m., with some no names, with a name tag, when they tired as you are, nigga. Stained Glock, 10 p.m., 2-11s on Devon, the 12th on Miranda, we ain't cop. 1 a.m., Wayne block, 2 a.m., same spot, 3 a.m., with a no name, with a name tag, when the game's in the name drop. 8 p.m., chain pop, 9 p.m., stained Glock, 10 p.m., 2-11s on Devon, the 12th on Miranda, we ain't cop. 1 a.m., Wayne block, 2 a.m., same spot, 3 a.m., with some no names, with a name tag, when it's tired as you are, nigga. Adesso siamo entrati nella sala trap, dai. Mamma mia. E, no, stavamo pensando un po' a quello che era successo nella settimana. Mi hanno suggerito un bel concerto, giusto? Assolutamente, bellissimo. A quale ci sei anche stato? Sì, sì. Al concerto forum ad Assago di Ennio Morricone. Bello. Bello. Che era poi una ricorrenza speciale, giusto? Era una... Sì, mi sembra 60 anni di musica. No, non male, non male. No, arrivare a quelle... E non hai ancora voglia di andare in pensione, pensate. No, no, anzi. Purtroppo, vabbè, la mia critica è sull'acustica del forum, ma è risaputo che... No, beh, ovvio. Ma io come personaggio... per sentire un'orchestra, no? Come... Sì, insomma, sì, sì, sì. Sentivi gli impianti di reazione sopra. Trrr, trrr. Ti ricordi cosa ti ho scritto quando mi hai mandato la foto? No. Io al concerto di Morricone gli ho mandato un messaggio che ho scritto, sì, ma... c'è figa. Sì, sì. E io assolutamente sì. E no, invece un'altra notizia in realtà che ho visto questa settimana, sai, questo qua è l'angolo del delirio delle notizie stupide. Ho notato che hanno fatto la musica per i gatti, fatta a ritmo di fusa. No, ma è proprio una cosa ufficiale, non è una fantastico cavolata. Cioè, è musica per rilassare i gatti. Ah, per rilassare i gatti. Per rilassare i gatti, è così. Sai, ogni tanto saltano fuori queste... Come dire, trovate, bravo, bravo, trovate. Hai tolto le parole di bocca. Vabbè, intanto che andiamo a cercare un altro po' di bellissime notizie. Sì, questa da dare. Poi. Oh, e non sto scherzando, guarda. No, no, ma non. La prima musica per gatti, al ritmo. Sì, delle no, fusa. Ho capito, però. Musica per le orecchie felini. Ce l'ho già il mio gatto che mi sveglia la mattina, lascia perdere. Com'è il risveglio col gatto? Sì, vabbè. Triste. Sarebbe meglio una topa, però è un altro discorso. Ecco, in questo momento un uomo verrà ucciso. E andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Kendrick Lamar con DNA. This out my DNA, hey, on your feet. This out my DNA, hey, on your feet. I got loyalty inside my DNA. Cocaine, quarter beats, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. I was born like this, and born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. Which shouts you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. again, then win again. Like Wimble, then I serve. Yeah, that's him again. The sound, the engine, then it's like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work. I know just who you are. See, use it, use it. Ve lo dicevo che a fine programma c'è sempre il delirio, si è manifestato anche stasera. Però devo dire la verità, stasera che ci siete anche voi è stato più contenuto, nel senso gli ultimi minuti. Solitamente invece parte. Vabbè, insomma, bisogna un attimino prendere le misure. Giusto, giusto, giusto. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Guarda, sempre più preciso. Abbiamo toccato il fondo anche stavolta. Questa è veramente vale tutta la puntata. Sì, infatti adesso me la metto come suoneria del cellulare. E niente, salutiamo le mondane, che quindi sì. Ragazzi, grazie mille a voi di averci invitato, no, e speriamo di vedervi fine mese. Prossimi live a fine mese. Sì, sicuro alla Vineria Gallarate, alla vinoteca Gallarate, e possiamo. E poi cercateci sulla pagina, noi iniziamo, diciamo, anche a tutti gli altri. Noi iniziamo già a segnare qualche bottiglia sul vostro conto. Bravo, io ho iniziato anche a mettere mi piace alla pagina. Giusto, cos'ho? Mettete mi piace alla loro pagina. Lo tengo. Siamo quasi a 1000, vogliamo sfondare i 1000. Ho visto, visto. Però sono tutti like veri, che mi piace molto questa cosa. Non abbiamo comprato niente, quindi è più bello. È molto più bello, molto non più so bello. Se è più utile, da ma più bello. Soddisfazioni, diciamo. Vero. Ma è su più utile, secondo me, potremmo fare un'altra puntata di altre 2 ore, quindi non ne parliamo. Però vabbè, è vero, è una bella cosa che siano cose vere e non acquistate. Va bene, io vi saluto. Al termine. Salutiamo la Cri. Ciao. Ciao. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo. Vabbè, anche forse. Vediamo la webcam se dovrebbe andare. Se siamo ancora vivi. Sì. Poi se nelle prossime puntate dovremo avere, non settimana prossima, tra 2 settimane, come ospiti i Murmurmori, che era un altro gruppo che avevamo sentito un po' di tempo fa. Ci presenteranno solo il disco loro. Purtroppo non ci fanno il live. L'hanno fatto l'anno scorso, pensa a giugno, e poverini stavano grondando. No. Stavano grondando. Veramente, mamma mia, che caldo che faceva quella Però sera. Sono stati molto seri, hanno fatto un bel live. Poveri. Quindi diciamo che ci erano piaciuti molto. E niente, vi saluto. Tony vi saluta. Ciao. Salutiamo Fabio e la Debora. Ciao. Ciao, ciao. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao. Ciao.